era Giorgia Colina e se vuole non se lei anni della poesia e se ma anni nel bandiera maltia mi stupa non c'è cosvere ma la e se ma vabbè. storia tu ricer, per già tu sal e la tie, bis mir steht ent von Rebbeha, ob Hashems wara tempesta, bdiat fetschak dar sabiha. Less than men, Jar Jar Ali.